su, ti ho sentito su YouTube. Trovo più profondi dei tuoi argomenti anche lunedì. Siamo su sto loop, in certi casi incasinato, in certi casi nato giusto, in certi casi nato sbagliato. Capo, stammi a sentire. Fai così cagare che se investissi su di te ti mettessi in gioco sul mercato. Gutalax rischierebbe seriamente di fallire. Sei maffo, non matto, te lo leggo sul viso. Ti surclasso con la calma e sangue freddo di diviso. Giuro che gioco se il gioco è più duro il momento che il culo vi si stringe. Nube di fumo sul fitto scuro e gli occhi più rossi del ginger. Sono Mr. X, il mio pronostico è X. Anche il clap applaude se vi prendo a calci col kick. Sempre al verde, come Taribo West. Oh yes man, voto 10 nel rap test. Ah ah, Matt Studio Fra, noi spingiamo puro rap. Genova è la città, Bolza la mentalità. Cresco in cattività, il rap è l'attività. Questa è una rivincita, fanculo a chi critica. Mi sbatto per fottere tutti, mi sbatto per chiudere puffi. Quanto mi sbatto lo vedi dagli occhi, cazzo da fatto tu non mi fotti. Ma ci tre botti non sono pipotti, sono più gonfi di giriscotti. Zero risotti, stappo cilotti, faccio lotti, tua casa biscotti. Zio ancora che vuoi fottere? Io vengo dalla polvere, tornerò polvere. Quindi non ho paura di perdere. Non fare gangsta rap, lascia perdere, lascia come perdere. Se parlassimo di crack. Accendo più bombe di un kamikaze in Iraq. Sfondo auto in bratto muri a fondo yacht. Mad boys, UBR, R, mode fuck. Bolzaneto, nuova scuola, prendi nota. Nota il bicchiere mezzo pieno, non si svuota. Tutte palle come il fieno, mi di meno. Di casini sono pieno, mi incasino. Tiro il freno, zio non faccio come il trota. Un casino in meno, un altro idiota che vince saremo. Noi saremo idioti, ma non remo insieme a chi vota uno scemo. Dove andremo? Voglia poca, niente fatti, tutti fatti di coca. Si perde quota in un baleno. Dove finiremo? Me ne accerto, sono certo. Tu ci bossi come un vetto, perché indossi una maschera scoperto. Lascio inverto, non bastasse. Porto rime grasse per chi ci sballasse. Può sentirlo di concerto. Mi sconcerto, poco conta. Dopo la seconda bomba mi diverto. La quarta mi smonta, si sprofonda col mio infetto. Bara un in testa, mi sfonda e calpesta. Si manifesta e me ci resta fino in tomba come Alberto. Senti il beat, accendi il mic. Pompa lo snare insieme al kick. Lassimo X, Ale, UBR, nuovo fit. Piace pure alla tua miss, pazza per il mad style. Andrews mi dà l'ok, gli rispondo alright. Vedi com'è che va, da ste parti la vita è una lotta. C'è chi sfoga la sua fotta e chi è perenne in bota. Ma ogni volta che prendo una penna un foglio, voglio sentirmi vivo, esplosivo, orgoglioso perché non crollo. Non indossiamo maschere, siamo fatti così. È certo come che ogni uomo sa cos'è una mia. Legato al territorio perché è nato qui. Orgogliosamente genovese come i blue jeans. Fin da Fijin, appassiono per un rap. Sentivo, ma se che penso, è Tupac. E se ci penso ora, credo che questa varietà mi ha dato davvero tanto e sento che mi guiderà. Calco questa via da 18 anni a questa parte. Sono state giornate sfatte, consumate 50 paia di scarpe. Gigante, canne su canne, hash più siga il thunder. Se vuoi jeep noi hammer, un tuo click un banna. Con X esce unita 10, prova se ci riesci. Con i puffi cresce in questo lato incasinati come i greci. Si alzano i decibel, le vostre recite restano illecite. Perché ho subito troppe prediche. Chissà in futuro che mi attende. Ora in studio sempre, invece il destino qua l'opportunità consente. Cammina a luci spente, privo di corrente. Arrivati al bivio, tutti sbagliano la strada che si scioglie. Scelta allo sbaraglio, lo vuoi fare fallo. L'ennesimo errore da parte di un testardo. Pronto per lo sballo, ora devi mangiarlo. Il prossimo cartone, capitanarlo. Incasinata in tutto per tutto, questa è la mia disgrazia. Tu lassù ignori me fin dall'infanzia. Comunque Felix ti ringrazia, il tuo suono mi strazia. Merda è la mia razza, non so se sono pazza. Navigare nella merda ormai è un'abitudine. A tiro sfiga come una calamita l'inquietudine. Incasinati sempre, Cristo santi vari. Studio siamo fatti tali, in giro tanti sguardi amari. Mettiamo le cose in chiaro in certi casi. Ubi, rupi, smad boy con noi sono solo patti chiari. Lenta a carburare, sono un diesel come Vin. Bevo più vino di Alan, faccio cin, cin. Sì, sì, zero cash in tasca. Qui, qui, a volte l'umore si guasta. Quindi adesso basta. Prevedo la vostra fine come un Maya. Combatto come un Saiyan. Più veleno del Taipan.